Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una sera di gennaio decidi per scherzo di realizzare il sogno cullato da quando sono salito in bici. Percorrere 255 chilometri tra fango, pietre, sofferenza. E dire alla fine, è fatta. Ho finito la Parigi-Roubaix. Sono Antonio Perin, vengo da un piccolo paese in provincia di Vicenza che si chiama Mason Vicentino. Sono sposato, ho due figli, pratico del ciclismo a livello amatoriale per divertimento. Di lavoro vendo prodotti petroliferi, quindi benzina, gasolio e tutto quello che ci va dietro. Quel gran genio del mio amico con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio certo di buttare e riparare. Questa è la frase di Lucio Battisti che campeggia esattamente qua fuori dalla porta dello stand di Radio 24 all'interno della fiera di Bologna che si chiama Autopromotech. Buongiorno a tutti, sono le 16:09, secondo il famosissimo ormai orologio di Davide Ciocia che ci accompagna a tutte le esterne. Ripetiamo, siamo in diretta dalla Fiera di Bologna. La Fiera di Bologna è una grande fiera, quindi ospita diversi avvenimenti. Nella fattispecie, in questi giorni, ospita questa fiera, questa manifestazione, che si chiama Autopromotech. Me l'hanno venduto come l'aftermarket dell'automobile. Cioè, praticamente, allora, tutto quello che non c'entra col comprare auto, camion, ecco, tutto quello che avviene dopo, meccanici, cioè ti aggiri per gli stand ed è tutto pieno di equilibratrici che ho scoperto poco fa essere, finalmente non sento più la doppia voce che ho sentito fino a 2 secondi fa, spero non l'abbiate sentita anche voi, però io avevo la mia voce che mi parlava praticamente con 2 secondi di ritardo. Equilibratrici, che sono quelle cose che i gommisti fanno girare per togliervi la gomma e per farvi... credo il, come si chiama, la convergenza, ponti di sollevamento auto, c'è tutto un mondo di ponti di sollevamento auto, tu entri e ti trovi questi aggeggi magnifici, poi peraltro, perché un uomo, per un uomo, non so, per una donna, adesso non voglio entrare nel sessismo spiccio, ma per un uomo come me che non sa nulla di meccanica sono comunque delle cose affascinanti, e poi carburanti e roba, insomma la fiera di tutto quello che non c'entra con l'automobile. 349-238-6666, la diretta continua, oggi raccontiamo una storia che non parla di automobile, però parla in qualche modo di meccanici. È una storia che racconta di una grande impresa che Antonio, che è l'ascoltatore che ce l'ha mandata, ha compiuto partendo da niente, partendo da una sera a cena con degli amici, sono lì, chiacchierano, evidentemente hanno una passione per il ciclismo, e a un certo punto uno dice, ma perché non andiamo a farci la Parigi-Roubaix? Ed eccoci qua, 349-238-6666, se avete un profilo Facebook è sempre quello lì, quello che ripeto tutti i giorni, che è Voi siete qui, Radio 24. Se voi avete mai affrontato una grande impresa... Sempre quello... Le mie vacanze fatte in bici sono un'impresa, bagagli al seguito non sono più una ragazzina. Però Mary, ci devi dire com'è nata, non che cosa fai. Gianluigi, le mie imprese hanno sempre preso vita da una frase tipo tu non puoi, tu non ce la fai, tu non sei capace. E così ho cantato, anche se malissimo, al Caravaggino d'Oro, ho posato il parquet in casa, ho asceso il temibile Monte Cavallo in solitaria. Ecco, imprese come queste. 349-238-6666, in diretta Radio 24 da Autopromotech. Ho sempre paura di sbagliare il nome. Autopromotech, giusto? Che sta per auto, promozione di tutta la parte tecnica dell'automobile. Non c'è nessuno qua che possa smentirmi. Tiziano Bonini mi fa così con la manina e quindi vuol dire che posso andare dritto. Vi ricordo appunto che oggi parliamo di quella cosa qui, parliamo di questa cosa qui, che è le grandi imprese della vostra vita, non tanto loro, ma come sono nate. Perché Antonio si è fatto tutta una Parigi-Roubaix semplicemente perché una sera a cena hanno detto, perché non ci facciamo una Parigi-Roubaix? Nel buio del mattino, in silenzio, scendiamo dal bus che ci ha portato a Cambronne-Ribeincourt, luogo di partenza di quella che viene definita l'inferno del nord, la Parigi-Roubaix. 255 chilometri di asfalto, pietre, polvere e fango. Prepariamo la bici, controlliamo le ultime cose, ripassiamo le raccomandazioni e i consigli ricevuti il giorno prima, come un disco rotto. E poi via, verso la linea di partenza che però non è ipertecnologica come le gare amatoriali italiane. Qui tutto ha un'alea di passato. Ci sono i cartellini da timbrare, nessun cronometro, solo arrivare. 5 minuti dopo siamo sulla strada, albeggia appena. Pedali in quel fresco che è a metà strada tra il freddo della notte e quello che sarà il tepore del giorno, che però già minaccia pioggia. I primi 100 chilometri corrono asciutti e veloci, anche troppo. Lo spirito nazionale ci ha portato a unirci a un gruppone di italiani che, come sempre, sa farsi riconoscere. Un branco di cani da corsa che corre e basta, non capendo affatto lo spirito della corsa, che in realtà è un altro, è godersi la gara. Il piacere della pedalata è la pedalata stessa. Come dico io abitualmente, il bello non è la meta in se stessa, quanto il percorso per arrivarci. Piccole indicazioni sull'asfalto ti danno la direzione. PR, Parigi-Roubaix, è una freccia. Nessuno striscione, nessun vigile, nessun volontario. Sei tu, la strada e quelle frecce per non perderti nel nord della Francia. Le campagne che attraversiamo su stradine secondarie sono sconfinate e tutt'altro che pianeggianti. Per chi se ne intende sono 1500 metri, i metri di dislivello della corsa, e sono tutti nei primi 120 chilometri. Le chiazze gialle della colza sono bellissime, come il sole che oggi però non c'è. Primo ristoro ai 100 chilometri. Abbiamo fatto abbastanza presto, ma ecco la realtà. Bisogna scendere dalla bici. Nessun ammasso di gente che prende al volo le cose. Qui ti devi fermare, mettere giù la bici, timbrare il punto di controllo e poi, se vuoi, mangi, se no riparti. Ma devi fermarti. Più a nord cambia il paesaggio. Le case diventano piccole, basse e tutte uguali, di mattoni con i tetti affusolati. Sembra di tornare ai paesini della rivoluzione industriale e sembra di vedere il fumo del carbone delle fabbriche. Ecco che arriva il primo tratto di pavé. Già, perché è così che si chiama quell'ammasso di pietre che da noi sono cubetti squadrati di porfido al massimo di 10 cm per 10. Qui invece sono grosse pietre, ben allineate per carità, ma dure, staccate due dita di spazio e a gobba e soprattutto maledettamente scivolose. Mi hanno consigliato di prenderle a tutta birra, il pavé, e così faccio. Uso le tecniche di mountain bike delle uscite invernali, anche se sono sulla bici da corsa, e sono fuori dal primo tratto in un attimo. Ma è solo il primo. Ce ne sono ancora tanti, sono 27 i tratti di pavé, per essere precisi. Uno dopo l'altro passano i chilometri e il pavé. La velocità a cui riesco a farli è sempre più bassa, e così le pietre si sentono sempre di più. Il paesaggio è sempre uguale, paesini con casette basse e pavé, senza soluzione di continuità. Nessuno che si curi di te. E inizia a piovere. A circa metà percorso, passato un gruppo di case, si curva a destra e improvvisamente la visione è spettrale, quasi dantesca. L'orizzonte è chiuso da un bosco fitto e scuro, immerso nella foschia e nella pioggia. Al centro un cunicolo sovrastato da un portale che lascia intravedere una luce fioca dal fondo, sembra la bocca dell'inferno. Siamo a Darenberg, la foresta maledetta, uno dei tratti di pavé più duro, pericoloso e mitico di tutta la corsa. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets comb, where the miles are marked in the blood and the gold, and I'll meet you farther on up the road. Mi fermo e faccio una foto al cartello d'ingresso, non voglio tornare a casa senza. Qui si è fatta e si fa ancora la storia del ciclismo. 4 belgi arrivano sparati, gridando op op op op op, un po' come si fa sulle piste da sci. Quando entrano sul pavé però senti il rullare secco e violento delle pietre sulle ruote, ma neanche il tempo di guardarli e tratan! Un contatto fra i tre si risolve in una rovinosa caduta tra le pietre che li lascia a terra addoloranti, sanguinanti e incastrati tra i tubi delle loro bici. Io prendo la rincorsa, 200 metri buoni, e mi tuffo anch'io nell'antro. L'ingresso sul pavé è brutale. I sobbalzi anche a 30 all'ora sono violentissimi. Le pietre intrise di pioggia e muschio sono come il ghiaccio. La bici sbanda ma resta in equilibrio e improvvisamente stock. Si spezza una delle due tacchette che mi tiene agganciato ai pedali della bici. Sbando paurosamente a destra e mi dirigo verso quella striscia nera che ricordavo di aver visto in TV, dove di solito corre la telecamera, e pensando si tratti di asfalto, mi pianto. Le ruote sono immerse per 6 cm in una melma nera a metà strada tra la carbonella e la torba. Riprovo a salire sul pavé, ma è impossibile. I 10 cm di salto tra le pietre e il bordo e l'impossibilità di prendere un minimo di velocità mi obbligano a fare gli ultimi 200 metri a bordo strada, a piedi. Per fortuna poco dopo la foresta c'è un ristoro con meccanico. Lì cerco di farmi cambiare la tacchetta, ma le hanno finite. Il meccanico educatamente mi dice di rinunciare, che tanto la mia parte ormai l'ho fatta, ma io no, con una gamba sola, ma a Roubaix ci voglio arrivare. Lui mi guarda, scuote la testa sorridendo e in francese borbotta les italiennes. Poi mi chiede l'altra scarpa e con mia sorpresa, fatte due misure, prende un altro tipo di tacchetta e con raspa e taglierino si mette al lavoro. Dopo 20 minuti aveva costruito una tacchetta come le mie. Mi dice risoluto in un italiano biascicante: non sganciarla, ok? Potresti farti molto male. Ringrazio. In Italia, nella mia esperienza, nessuno l'avrebbe fatto. Gli chiedo quanto devo, ma non vuole soldi. Gli do una mancia che lui rifiuta un paio di volte, poi accetta e riparto. Questo meccanico era, diciamo, per certi versi il classico francese che si vede nelle cartoline, un po' paciuffotto, con i baffi, una persona abbastanza cordiale e sinceramente molto molto disponibile. È stata una sorpresa perché ha lavorato per quasi 20 minuti su un pezzo di plastica che non aveva nessun tipo di scopo, per trasformarlo in quello che mi ha permesso di completare la mia Parigi-Roubaix. Mancano ancora 100 km a Roubaix, dei quali oltre un terzo in pavé, e di quello più duro. Qui mi dicono ho appena cominciato a soffrire. In pochi chilometri arriviamo nelle Fiandre francesi e all'uscita di ogni tratto in pavé un capannello di gente sempre più folto ti accoglie con calore forte e sincero, solo che cominci a non vederli più. La fatica e il dolore che ti prendono sono terribili. Le mani si inchiodano al manubrio, le spalle sembrano strapparsi. A Sisuan cado scivolando sul fango e comincio a pensare di non farcela. Ormai i tratti di pavé, dagli iniziali 30 all'ora, li sto facendo a 12-15 km all'ora e a questa velocità le pietre le senti tutte, sulla schiena, sulle braccia. Vedi quelli al tuo fianco come te, testa curva, denti serrati, sguardo spento e senza quella luce che avevi alla partenza. Ecco, ora capisco che cos'è l'inferno del nord. Cosa spinge noi ciclisti a sottoporci a tali sofferenze? Perché siamo così masochisti? E alla fine, cosa diavolo sono venuto a farci qui? Immerso in questi pensieri, ecco un altro tratto di pavé, ancora gente che tifa per me. 100 metri ancora e sei sull'asfalto, mi dico. Poi una bambina bionda di circa 7 anni mi viene incontro e alzando le braccia mi grida «Allez, allez, bon courage, monsieur, allez!» Non so perché, ma neanche il tempo di dire merci e mi si annoda la gola. Mancano solo 40 chilometri, non posso cedere ora. I tratti che mancano sono i più celebri e solo il nome mette soggezione. Pavé du Calvaire de la Justice, Le Carrefour de l'Abre e altri come questi che sembrano volerti sconfiggere. Sembra ci sia qualcuno che ti tira indietro per la sella e intanto ti bastona le braccia, la schiena, le gambe. Conti i tratti mancanti, 5, 4, 3 e poi i metri, 100, 50. Alla fine, come all'uscita da un incubo, ti ritrovi sull'asfalto di Roubaix. Sembra di volare. Sul viale alberato che conduce al famoso velodromo anche le macchine si fanno da parte. Ti rendi conto per la prima volta che hai compiuto la tua impresa e ce l'hai fatta. Allora rallenti, prendi fiato, curvi a destra tra due ali di folla acclamante, la pelle d'oca alto un dito e finalmente sei sul cemento del velodromo. Un giro lento, gustato e il traguardo con le braccia alzate e le lacrime che rigano il viso, sporco di fango. Ed è fatta. I will be king. And you will be queen. Though nothing will drive them away. We could be heroes forever and ever. Serve per l'equilibratura, mi scrivono, per calcolare il peso di quel piombino che si attacca al cerchio. Ovviamente si riferisce all'equilibratrice. La convergenza è un'altra cosa. Grazie a tutti i tecnici meccanici che stanno scrivendo, che non sono presenti qua. Immagino che l'Italia sia svuotata oggi perché siano tutti qua, giusto? Auto, camion, pezzi di ricambio, Autopromotech. E in fondo poi questa storia racconta quella roba lì, che i meccanici hanno un cuore, cioè che c'è un tizio nel nord della Francia che vede arrivare un altro tizio sudato, sfatto, gli dice guarda, lascia stare, è finito, torna a casa, e lui invece, visto che vuole arrivare in fondo, trova il modo per staccargli. Non ho capito esattamente la dinamica, facciamo che la chiedo direttamente a lui. Pronto Antonio? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Mi sembri un po' giù di morale però, Antonio, tutto bene? Sì. Sono un po' emozionato dal racconto che hai fatto. Beh, l'hai fatto tu, te lo ricordo sempre, io semplicemente lo leggo. Perché riesci a renderlo anche più poetico di quello che in realtà è stato. Antonio, di dove sei tu esattamente? Mason Vicentino, è un piccolo paesino sulle colline in provincia di Vicenza. E tu sei un ingegnere, giusto? No, io sono un ragioniere. Tu sei un ragioniere. E di lavoro vendo prodotti petroliferi, benzina, e non sei, scusami, e non sei qui a Autopromotech a vendere benzina e gasolio? No, oggi sto lavorando. Ma l'idea è che stiano lavorando anche quelli che sono qui, però, perché sì, sembra chiaro. Una vacanza. Parliamo del ciclismo invece, Antonio. Sì. Quando hai cominciato? Quante volte lo fai? Sei un semiprofessionista? No, assolutamente no. È cominciata con degli amici 7-8 anni fa. E da lì, da 1-3 volte a settimana, vado a fare un giro che può essere più o meno lungo a seconda del tempo disponibile. Ok, e una sera ti ritrovi con degli amici e vi dite andiamo a farla Parigi-Roubaix. Sì. Io erano già 3-4 anni che cullavo il sogno di fare questa mitica gara che è praticamente percorsa sulle stesse strade che fanno i professionisti. Ok, questa è la cosa che volevo chiederti, perché la Parigi-Roubaix è una gara di livello mondiale, giusto? Cioè una classica, esatto. È una delle grandi classiche del ciclismo mondiale. E poi c'è una versione per gli amatori, è corretto? Esatto, che ripercorre lo stesso identico tracciato che in quell'anno hanno percorso i professionisti. Ok, perfetto. Ed è famosa proprio per il pavé, quello che tu citi, esatto, più volte, e che ci fa capire che appunto non sono i ciottoli di pavé che ci sono per le strade italiane, ma è una roba molto più... Sono delle pietre più grandi. Dolorosa. Sì, sono un po' più grandi di mattoni che siamo abituati a vedere noi nelle case. Uh-huh. Solo che questi sentieri, perché in realtà sono delle antiche stradine romane che percorrono le campagne delle Fiandre tra la Francia e il Belgio, okay, e in molti casi sono piuttosto rovinate. E sono ancora quelle là? Sono ancora quelle là, sono proprio quelle strade là dell'epoca? Sono quelle, e addirittura hanno creato un comitato per mantenerle intatte. Di protezione del pavé, immaginavo. Esatto. Guarda Antonio, noi purtroppo dobbiamo chiudere, quindi so che tu vuoi raccontarci di un'altra piccola impresa, quindi se hai voglia di farlo facciamolo subito, in modo che poi riesco a dare la linea alla borsa più o meno in tempo. È una cosa velocissima, volevo citare una gara ciclistica non competitiva a favore benefico. Sì. È la Duchenne Heroes, è una maratona ciclistica su mountain bike che si percorre dal 16 al 22 di giugno sulle Dolomiti Bellunesi, ed è a favore della ricerca per la distrofia muscolare di Duchenne, che è la forma più grave di distrofia che colpisce i bambini. Quindi voi vi fate questa gara per 5 giorni di fila, mi sembra di capire. Sì, sono 6 giorni in mountain bike, percorsi dai 60 agli 80 chilometri, lo scopo è di raccogliere fondi da destinare alla ricerca per la distrofia muscolare di Duchenne Becker. Ricordaci le date, Antonio? Dal 16 al 22 di giugno 2013, mm-hmm. E per chi vuole più informazioni c'è il loro sito, che è www.duchenneheroes.it. Grazie mille, Antonio. Duchenne Heroes. Ok, immagino che Google però ti dica forse cercavi, no? Più o meno funziona sempre così. Grazie ancora Antonio, in bocca al lupo per grazie tutto. Grazie a te Matteo. E per quella gara lì di 6 giorni anche. Ciao, arrivederci. Grazie a te, ciao. Ciao, grazie. 349-238-6666, qui a proposito di imprese si parla di... L'ho perso. Il Giro della Corsica insieme a mio figlio di 12 anni, 880 km, ma come? Perché un conto se lo fai in bici, un conto se lo fai in macchina, un conto se lo fai in moto. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. E giustamente Antonio ci manda una foto che è la foto che ha scattato sul percorso. Forse è la foto di cui ci parla esattamente nel racconto. Cioè lui con la tipica tenuta da ciclista, che per uno che fa ciclismo è la corretta tenuta, ma per una persona normale invece ha a che fare con l'abbigliamento di un extraterrestre, il caschetto in testa, un kiwi addosso, il dito alzato ovviamente, il pollice alzato, e alle sue spalle il verde, il bosco, e alla destra invece un cartello che riporta questa scritta: Drève de Boule de Rhin, pavé d'Arenberg. Sfida. Sostantivo femminile. Provocazione dell'avversario a duello o a qualsiasi altra competizione. Figurativo, atteggiamento provocatorio. Etimo, derivato di sfidare. Data, secolo XV. Tu sei un ciccione, non puoi fare salto in alto. Risultato bronzo ai giochi scolastici. Questa è la mia impresa, Luciano da Como. E poi ancora un messaggio che sembra mandato da Paolino Corleone, che si trova direttamente a Milano. Senigallia, Bozova, è una tratta, Bozova in Croazia, tra parentesi, in canoa. 349-238-6666, la mia impresa, interpretare un bimbo in uno spettacolo di teatro ragazzi. Però questi messaggi io non li capisco, cioè tu non eri un bambino, non ho capito, eri un bambino, non eri un bambino, non capisco dove sta questi. Bonini mi fa avanti con la mano, come dire, non dar retta a sti messaggi. 349-238-6666. Visto che eravamo qui oggi e si parlava di imprese, sì, l'abbiamo fatto per tutta la prima parte, noi abbiamo pescato però tra i messaggi che ci sono arrivati, tra i racconti che ci sono arrivati, il racconto di due ragazzi che nella vita facevano altro e poi sono ritornati a fare invece quello che gli piaceva fare da ragazzi, cioè smanettare con le motociclette, smontarle, rimontarli, cioè l'aftermarket più o meno. Non so quanto ci sia di market lì, perché credo che loro in realtà non so quanto acquistino dei pezzi di ricambio, quanto invece vadano in giro cercando delle vecchie motociclette. Sono due ragazzi emiliani che sostanzialmente fanno una cosa che va molto di moda adesso: prendono delle moto vecchie possibilmente, le smontano e le rimontano e le fanno diventare nuove. Anvil è il nostro nome e il nostro simbolo. Siamo appassionati di moto sin da ragazzini e questa passione ci ha spinti ad iniziare a costruire moto, a cercare una perfezione estetica che plasmiamo artigianalmente con le nostre mani. Il risultato è un vintage restaurato col sapore di moto di altri tempi. Siamo due ragazzi emiliani. La nostra amicizia è nata sui banchi di scuola. Ai tempi entrambi giravamo con moto da cross. Dalle moto da cross poi siamo passati alle moto stradali e da quelle abbiamo fatto un passo indietro. Abbiamo abbandonato il moderno per scoprire quello che per molti è considerato vecchio, pericoloso o passato di moda. Ci siamo innamorati di moto che hanno in certi casi il doppio dei nostri anni. Moto che noi consideriamo uniche. Moto che ci fanno sentire protetti dalla loro esperienza. Ognuna di loro si contraddistingue non solo per i pregi ma anche per i difetti. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di raccogliere svariati modelli di moto anni 70 e 80. La nostra storia di preparatori però nasce circa 2 anni e mezzo fa, quando per gioco abbiamo iniziato a modificare una delle nostre moto, cambiando secondo il nostro gusto personale le linee originali che caratterizzavano quel determinato modello. Abbiamo poi utilizzato 2 colori semplici, il nero opaco e il metallo sverniciato col flessibile. Da quel mix di colori inusuali e trattamenti poco eleganti per il mondo delle moto d'epoca è nata la Selvatica, all'anagrafe un Honda CBF 750. Una moto dall'anima cattiva, dall'assetto bassissimo, dalle forcelle sfilate talmente tanto da sembrare delle corna, le corna di un demone. Sempre per gioco abbiamo messo le foto del nostro esperimento su Facebook e abbiamo capito che le cose funzionavano. Il nostro lavoro era piaciuto e hanno cominciato a contattarci blogger, riviste e clienti pronti a investire sulla nostra creazione. Oggi abbiamo capito che l'elemento che ci caratterizza di più è proprio quello dell'inizio, è il tatuaggio che rappresentava il nostro legame di amicizia. L'incudine, tatuata sul petto, una Anvil. We were tight-knit boys, brothers and more than name. You would kill for me and knew that I'd do the same. And it caught me sharp, hearing you'd gone away. But everything goes away, yeah, everything goes away. But I'm gonna be here till I'm nothing. Bones in the ground, so quiet down. eravamo in 6, con età compresa tra i 13 e i 15 anni. Decidemmo di scalare l'altopiano delle Pizzorne vicino Lucca senza mai mettere un piede a terra. Ci riprendeva con la telecamera un genitore. Quando la strada saliva, io staccavo tutti con la telecamera puntata verso di me, mi sentivo un toro. Arrivato in cima, mi sembrò di aver fatto l'impresa. Francesco, ognuno chiaramente misura le imprese su di sé, su quello che riesce a fare oppure no. È arrivato, a proposito di imprese, quello che si riesce a fare oppure no, è arrivata una mail a voi siete qui, @radio24.it, che dice così: ciao, sono Giorgio Martino, nel 1998 ho fatto Lisbona-Pechino in ape, 7 mesi e oltre la Via della Seta. Ho la sensazione che oggi vinca assolutamente a mani basse. Ho visto, tra l'altro ho cercato durante il brano alcune cose su di lui, facevano lui e l'altro con due api, l'ape car, quello lì, facevano 120-130 km al giorno, mossi esclusivamente dalla grande passione per la scoperta, dice qui il libro. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Vi ricordo, siamo stati in diretta, adesso vado a vedere qui ad Auto Promotech, vado a controllare un paio di equilibratrici che sono comunque un bellissimo oggetto. Poi c'è un ragazzo che fa sta dimostrazione, che smonta la gomma e la rimonta. Sono passato due volte e è come in loop, lo fa credo da 4 ore. Vado lì a liberarlo da questa stregoneria. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Fabio Cantadori, grazie a Paolino Corleone, grazie anche a Stefania che oggi è venuta a trovarci ed è qui in studio con noi. La storia di oggi era di Antonio, grazie a lui, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Alberto, vengo da Brescia e la storia di domani è la mia e parla di sonnambulismo. Questa è la mia storia e io sono qui.